E sulle ultime note di Al ballo mascherato di Fabrizio De André rientriamo in diretta. Come vi anticipavo prima, siamo in collegamento con Fulvio di Cresce, che saluto. Ciao Fulvio. Ciao a tutte e a tutti. E siamo in collegamento con Fulvio appunto perché avete rioccupato uno stabile, quindi raccontaci innanzitutto dove siete, cosa sta succedendo ora. Sì, siamo all'ex ferrovia Veneta in via Zanolini, uno spazio di proprietà comunale abbandonato da anni come laboratorio Cresce abbiamo ritenuto la miglior casa in questo momento da riconquistare naturalmente ai movimenti, non a noi in quanto collettivi, per dare anche un segnale importante in questa città dove troppo spesso questa giunta dai buoni intenti che a volte dichiara sui giornali poi non passa mai i fatti. Detto ciò, questo è di proprietà comunale, come si diceva, è stato occupato poco fa da tutta l'assemblea del laboratorio Cresce. Ci sono alcuni attivisti sul tetto con dei grandi kiwai rossi a simbolizzare che da oggi in poi non saremo più fantasmi invisibili, ma questi fantasmi con cui ci hanno, come nel modo con cui ci hanno trattato in questi ultimi mesi, hanno preso colore, hanno preso il colore delle lotte sociali, che è rosso, e che adesso presidiano il tetto di questa struttura appena occupata. Negli striscioni c'è scritto "facciamo spazio, Cresce again", quindi aprire gli spazi di questa città, sia pubblici che privati, troppo spesso abbandonati e lasciati all'incuria. Questo è un po' il programma minimo di oggi che proponiamo alla città, ma naturalmente ha a che fare con un progetto molto più ampio di iniziativa culturale, politica e sociale, che è sempre a fianco degli interessi dei più deboli, dei poveri della città, dei precari, degli studenti fuori sede e via dicendo, perché lo voglio ricordare, nel laboratorio Cresce da anni si auto-organizzano tante lotte. La prima assemblea di Social Log prima della stagione delle occupazioni abitative si è tenuta al laboratorio Cresce, le plenarie degli operai della logistica, dei facchini e delle facchine si sono tenute per i primi due anni al laboratorio Cresce, e questo vale anche per gli studenti fuori sede, per i figli delle case Acer, chiamiamoli così, di San Donato e Navile, che al laboratorio Cresce avevano uno spazio di auto-organizzazione. Ecco, ho spiegato questo per ricordare che quando si parla di Cresce non si parla di un collettivo, ma si parla di molto altro. Ecco, perché lo ricordiamo, Cresce era stato sgomberato l'8 agosto insieme alla BA, e quindi dall'8 agosto voi non avevate più uno spazio fisico, diciamo. Sì, dall'8 agosto non avevamo più uno spazio, e tutta quella progettualità di natura culturale che ha sempre animato la nostra esperienza di fatto si è bloccata. Ricordo a tutti che un po' la cosa che ci piace ricordare del laboratorio Cresce, della nostra attitudine culturale, è sempre stata quella di dare sostegno alla cultura underground, ma anche alla cultura alta, per renderla accessibile a tasche proletarie e precarie. Abbiamo sempre cercato di far incontrare artisti di diverse arti, dal cinema al teatro alla musica, con le soggettività sociali di cui parlavo prima, quindi con gli inquilini resistenti agli sfratti, con i facchini, con gli operai della logistica, con gli studenti. Questa è stata una parte della nostra esperienza che di fatto dall'8 agosto si è bloccata, veramente non se ne poteva più, perché i tanti progetti anche di natura quotidiana che animavano il nostro spazio non avevano più una casa. Ecco, e da oggi quella casa se la sono riconquistata con questa occupazione di garanzia. Ecco, un'occupazione di garanzia appunto, e nel frattempo avete, ormai è un'ora che avete occupato più o meno, c'è già stata qualche reazione da parte del comune? Ad ora no, nessuna reazione, ancora silenzio, vedremo cosa diranno nelle prossime ore. Per noi questa occupazione funziona anche come garanzia, perché degli intenti abbastanza chiari in questi mesi sono stati pronunciati da alcuni esponenti istituzionali, ma non sono mai seguiti dai fatti. Non c'è stato mai un tavolo di trattative, non c'è stata mai una proposta concreta, e allora a mo' di garanzia oggi siamo qua e vedremo come svilupperanno le ore. Nel caso in cui, come ormai triste abitudine, questa giunta dovesse rifiutare la trattativa nei nostri confronti, immagino che si muoverà come al solito la questura, noi siamo pronti a resistere e invitiamo chi ci sta ascoltando a solidarizzare con noi, a raggiungerci qua in via Zanolini 41. E intanto avete indetto anche un'assemblea in via Zanolini, giusto? Sì, un'assemblea domani, naturalmente, che ha a che fare con la questione del laboratorio Cresce, ma avrà tanti altri punti all'ordine del giorno, soprattutto legati alla direzione che sta prendendo la nostra città, il suo tessuto urbano, e che ai noi troppo spesso ci parla di espulsioni dei ceti popolari dal territorio, dai quartieri, e ai noi anche di tanto troppo sfacciato sfruttamento. L'assemblea di domani farà anche il punto su questa situazione. Va bene Fulvio, io ti ringrazio moltissimo, in bocca al lupo e ti saluto. Grazie, ciao.